Ad alta voce, Piero Baldini legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. L'amicizia di Rebecca aprì a Pilar Ternera le porte della casa, chiuse da Ursula fin dalla nascita di Arcadio. Arrivava a qualsiasi ora del giorno, come una mandria di capre, e scaricava la sua energia febbrile nelle faccende più pesanti. Certe volte entrava nel laboratorio e aiutava Arcadio a sensibilizzare le lastre del daguerrotipo con un'efficienza e una tenerezza che finirono per confonderlo. Quella donna lo sbalordiva. Il riverbero della sua pelle, il suo odore di fumo, il disordine del suo riso nella camera oscura turbavano la sua attenzione e lo facevano inciampare nelle cose. Una volta Aureliano era lì a lavorare in oreficeria e Pilar Ternera si appoggiò al tavolo per ammirare la sua paziente laboriosità. Improvvisamente successe. Aureliano seppe che Arcadio era nella camera oscura. Prima di alzare lo sguardo e incrociare gli occhi di Pilar Ternera, il cui pensiero era perfettamente evidente, come esposto alla luce di mezzogiorno. «Bene», disse Aureliano, «mi dica cos'è». Pilar Ternera si morse le labbra con un sorriso triste. «Che sei buono per la guerra», disse. «Dove metti l'occhio, metti il piombo». La prova del presagio rilassò Aureliano. Tornò a concentrarsi nel lavoro come se non fosse successo nulla e la sua voce acquistò una calma fermezza. «Lo riconosco», disse. «Gli darò il mio nome». José Arcadio Buendía ottenne finalmente quello che cercava. Applicò a una ballerina a molla il meccanismo dell'orologio e il giocattolo ballò senza interruzione al ritmo della sua stessa musica per 3 giorni. Quella invenzione lo eccitò assai di più di qualsiasi altra delle sue imprese strampalate. Non mangiò più, non dormì più. Senza la sorveglianza e le cure di Ursula, si lasciò trascinare dalla sua immaginazione verso uno stato di delirio perpetuo, dal quale non si sarebbe più riavuto. Passava le notti girando nella stanza, pensando ad alta voce, cercando il modo di applicare i principi del pendolo alle carrette da buoi, al vomere dell'aratro, a tutto quello che potesse essere utile se messo in moto. La febbre dell'insonnia lo prostrò così tanto che una mattina verso l'alba non poté riconoscere il vecchio con la testa bianca e modi incerti che entrò nella sua stanza da letto. Era Prudencio Aguilar. Quando alla fine lo ravvisò, meravigliato che anche i morti invecchiassero, José Arcadio Buendía si sentì scosso dalla nostalgia. «Prudencio!» esclamò. «Come sei venuto a finire lontano!» Dopo molti anni di morte, era così intensa la nostalgia dei vivi, così incalzante il bisogno di compagnia, così terrificante la prossimità dell'altra morte che esisteva dentro la morte, che Prudencio Aguilar aveva finito per voler bene al peggiore dei suoi nemici. Oh, lo stava cercando da molto tempo. Chiedeva di lui ai morti di Riohacha, ai morti che arrivavano dalla valle di Upar, a quelli che arrivavano dalla palude, e nessuno lo informava, perché Macondo fu un villaggio sconosciuto ai morti, finché arrivò Melchiades, lo indicò con un puntino nero sulle variopinte mappe della morte. José Arcadio Buendía chiacchierò con Prudencio Aguilar fino al sorgere del giorno. Poche ore dopo, distrutto dalla veglia, entrò nel laboratorio di Aureliano e gli chiese: «Che giorno è oggi?» Aureliano gli rispose che era martedì. «Proprio quello che pensavo», disse José Arcadio Buendía. «Ma improvvisamente mi sono reso conto che continua a essere lunedì, come ieri. Guarda il cielo, guarda i muri, guarda le begonie. Anche oggi è lunedì». Abituato alle sue manie, Aureliano non gli fece caso. Il giorno dopo, mercoledì, José Arcadio Buendía tornò nel laboratorio. «È un disastro», disse. «Guarda l'aria. Senti come picchia il sole, proprio come ieri e l'altro ieri. Anche oggi è lunedì». Quella sera Pietro Crespi lo trovò nella galleria a piangere, col piagnucolio senza grazia dei vecchi, a piangere per Prudencio Aguilar, per Melchiades, per i genitori di Rebecca, per il suo papà e la sua mamma, per tutti quelli che poteva ricordare e che allora erano soli nella morte. Gli regalò un orso a molla che camminava a due zampe su un filo di ferro, ma non riuscì a distrarlo dalla sua ossessione. Gli chiese che ne era del progetto che gli aveva esposto qualche giorno prima, sulla possibilità di costruire una macchina a pendolo che servisse all'uomo per volare. E lui rispose che era impossibile, perché il pendolo poteva sollevare qualsiasi cosa in aria, ma non poteva sollevare se stesso. Il giovedì tornò a comparire nel laboratorio con un doloroso aspetto di terra rastrellata. «La macchina del tempo si è sconnessa», singhiozzò quasi, «e Ursula e Amaranta, così lontane». Aureliano lo rimproverò come un bambino e lui adottò un fare sottomesso. Passò 6 ore a esaminare le cose, cercando di trovare una differenza con l'aspetto che avevano avuto il giorno precedente, affannandosi a scoprire qualche cambiamento che rivelasse il trascorrere del tempo. Rimase per tutta la notte in letto, con gli occhi aperti, a chiamare Prudencio Aguilar, Melchiades, tutti i morti, perché venissero a condividere la sua inquietudine. Ma nessuno accorse. Il venerdì, prima ancora che si alzasse qualcuno, tornò a sorvegliare l'aspetto della natura, finché non ebbe il minimo dubbio che continuava a essere lunedì. Allora afferrò la sbarra di una porta e con la violenza selvaggia della sua forza straordinaria frantumò, fino a convertirli in polvere, gli apparecchi di alchimia, il gabinetto di daguerrotipia, il laboratorio di oreficeria, gridando come un indemoniato, in un idioma altisonante e fluido, ma del tutto incomprensibile. Si accingeva a farla finita col resto della casa quando Aureliano chiese aiuto ai vicini. Ci vollero 10 uomini per rovesciarlo, 14 per immobilizzarlo, 20 per trascinarlo fino al castagno del patio, dove lo lasciarono legato a latrare in una lingua straniera e a vomitare bava verdastra. Quando arrivarono Ursula e Amaranta, era ancora legato piedi e mani al tronco del castagno, inzuppato di pioggia e in uno stato di alienazione totale. Gli parlarono e lui le guardò, senza riconoscerle, e disse loro qualcosa di incomprensibile. Ursula gli slegò i polsi e le caviglie, ulcerate dalla pressione delle funi, e lo lasciò legato soltanto per la vita. Più tardi gli costruirono una tettoia di palma per proteggerlo dal sole e dalla pioggia. Aureliano Buendía e Remedios Moscote si sposarono una mattina di marzo davanti all'altare che padre Nicanor Reina fece costruire nel salotto. Fu la culminazione di 4 settimane di soprassalti in casa dei Moscote, perché la piccola Remedios arrivò alla pubertà prima ancora di superare i vizi dell'infanzia. Don Apollinar Moscote le diede il braccio lungo la strada adornata di fiori e ghirlande, tra lo scoppio dei petardi e la musica di diverse bande, e lei salutava con la mano e ringraziava con un sorriso chi le augurava buona fortuna dalle finestre. Aureliano, vestito di panno nero, con gli stessi stivaletti di vernice che avrebbe portato pochi anni dopo davanti al plotone di esecuzione, aveva un pallore intenso e un groppo duro in gola quando ricevette la sua fidanzata sulla porta di casa e la portò all'altare. Remedios si comportò con tanta naturalezza, con tanto giudizio, che non perse le staffe nemmeno quando Aureliano lasciò cadere l'anello che cercava di infilarle. Da quel giorno si rivelò il senso della sua responsabilità, la grazia naturale, il tranquillo dominio che Remedios avrebbe sempre avuto di fronte alle circostanze avverse. Fu lei che di sua iniziativa mise da parte la migliore fetta che tagliò dalla torta di nozze per portarla in un piatto con una forchetta a José Arcadio Buendía. Legato al tronco del castagno, rannicchiato su un panchettino di legno sotto la tettoia di palme, l'enorme vecchio, scolorito dal sole e dalla pioggia, fece un vago sorriso di gratitudine e si mangiò il dolce con le dita, masticando un salmo inintelligibile. L'unica persona infelice in quella cerimonia strepitosa che si prolungò fino all'alba del lunedì fu Rebeca Buendía. Era la sua festa mancata. Per decisione di Ursula, il suo matrimonio doveva essere celebrato nella medesima data, ma il venerdì Pietro Crespi aveva ricevuto una lettera con la notizia della morte imminente di sua madre. Il matrimonio fu rimandato. Pietro Crespi partì per il capoluogo della provincia un'ora dopo aver ricevuto la lettera e sulla strada si incrociò con sua madre, che arrivò puntualmente la sera del sabato e cantò al matrimonio di Aureliano l'aria malinconica che aveva preparato per il matrimonio di suo figlio. Pietro Crespi tornò a mezzanotte della domenica per raccogliere le briciole del festino, dopo aver sfiancato 5 cavalli cammin facendo, nel tentativo di arrivare in tempo per il suo matrimonio. Non si seppe mai chi aveva scritto quella lettera. Tormentata da Ursula, Amaranta pianse di indignazione e giurò la sua innocenza davanti all'altare che i falegnami non avevano finito di smontare. Padre Nicanor Reina, che don Apollinar Moscote aveva portato dalla palude per farle celebrare il matrimonio, era un vecchio indurito dall'ingratitudine del suo ministero. Aveva la pelle triste, quasi sulle sole ossa, e il ventre pronunciato e rotondo e un'espressione di angelo vecchio che era più di innocenza che di bontà. Aveva l'intenzione di tornare nella sua parrocchia dopo il matrimonio, ma si stupì dell'aridità degli abitanti di Macondo, che prosperavano nello scandalo, soggetti alla legge naturale, senza battezzare i figli né santificare le feste. Pensando che nessun luogo avesse tanta necessità della semente di Dio, decise di fermarsi ancora una settimana per cristianizzare circoncisi e gentili e legalizzare concubinari e sacramentare moribondi. Ma nessuno gli fece caso. E così alle 8 della mattina mezzo villaggio si era riunito nella piazza dove padre Nicanor cantò gli evangeli con voce lacerata dalla supplica. Alla fine, quando gli astanti cominciarono a sbandarsi, alzò le braccia per richiamare l'attenzione. «Un momento!» disse. «Ora assisteremo a una prova irrefutabile dell'infinito potere di Dio». Il ragazzo che aveva servito messa gli portò una tazza di cioccolato spesso e fumante che egli bevve di un fiato. Poi si pulì le labbra con un fazzoletto che tolse dalla manica, stese le braccia e chiuse gli occhi. Allora padre Nicanor si alzò di 12 centimetri dal livello del suolo. Fu uno stratagemma convincente. Andò per parecchi giorni di casa in casa ripetendo l'esperimento della levitazione mediante lo stimolo della cioccolata, mentre il chierichetto raccoglieva tanto denaro in un sacco che in meno di un mese si iniziò la costruzione del tempio. Nessuno mise in dubbio l'origine divina della dimostrazione, tranne José Arcadio Buendía, che osservò, senza alterarsi, il capannello di gente che una mattina si riunì intorno al castagno per assistere ancora una volta alla rivelazione. si stirò appena sul panchetto e scrollò le spalle quando padre Nicanor cominciò ad alzarsi dal suolo insieme alla sedia sulla quale si era seduto. «Hoc est simplicissimum», disse José Arcadio Buendía. «Homo ist statum quartum materie invenit». Padre Nicanor alzò la mano e le quattro gambe della sedia si posarono a terra allo stesso tempo. «Nego», disse, «factum hoc existentiam Dei probat sine dubio». Fu così che si seppe che era latino il diabolico gergo di José Arcadio Buendía. Padre Nicanor approfittò del fatto di essere l'unica persona che aveva potuto comunicare con lui per cercare di infondere la fede nel suo cervello scombussolato. Tutti i pomeriggi si sedeva vicino al castagno a predicare in latino, ma José Arcadio Buendía si ostinò a non ammettere né tortuosità retoriche né trasmutazioni di cioccolata e pretese come unica prova il daguerrotipo di Dio. Allora padre Nicanor gli portò medaglie e immagini e perfino una riproduzione del panno della Veronica. Ma José Arcadio Buendía li rifiutò come oggetti artigianali senza alcun fondamento scientifico. Era così caparbio che padre Nicanor rinunciò alle sue intenzioni di evangelizzare e continuò a fargli visita con intenzioni umanitarie. Ma allora fu José Arcadio Buendía a prendere l'iniziativa e a cercare di infrangere la fede del prete con martingale razionaliste. Una volta padre Nicanor portò al castagno una scacchiera e una scatola di gettoni per invitarlo a giocare a dama. Ma José Arcadio Buendía non accettò, affermando che non aveva mai potuto capire il significato di una contesa fra due avversari che erano d'accordo sui principi. Padre Nicanor, che non aveva mai considerato il gioco della dama da quel punto di vista, non riuscì più a giocarlo. Sempre più meravigliato della lucidità di José Arcadio Buendía, gli chiese come era possibile che lo tenessero legato a un albero. «Hoc est simplicissimum», rispose lui, «perché sono pazzo». Da quel momento, preoccupato per la sua stessa fede, il prete non tornò a fargli visita e si dedicò completamente ad affrettare la costruzione del tempio. Rebecca sentì rinascere la speranza. Il suo destino era condizionato alla conclusione dei lavori. Da quella domenica in cui padre Nicanor era venuto a pranzo e tutta la famiglia a tavola aveva parlato della solennità e dello splendore che avrebbero avuto le cerimonie religiose quando si fosse costruito il tempio. «La più fortunata sarà Rebecca», disse Amaranta. E dato che Rebecca non capiva quello che le voleva dire, glielo spiegò con un sorriso innocente. «Toccherà a te inaugurare la chiesa con le tue nozze». A partire da quel momento, Rebecca non rivolse più la parola ad Amaranta, convinta che la sua iniziativa non avesse avuto l'innocenza che sua sorella aveva simulato. «Era la cosa meno grave che potessi fare», le ribatté Amaranta durante la virulenta discussione che ebbero quella notte. «Così non dovrò ucciderti nei prossimi 3 anni». Rebecca accettò la sfida. Quando Pietro Crespi venne a sapere della nuova dilazione, ebbe una crisi di scoramento, ma Rebecca gli diede una prova definitiva di lealtà. «Scapperemo quando tu vorrai», gli disse. Pietro Crespi, tuttavia, non era un uomo avventuroso. Mancava del carattere impulsivo della sua fidanzata e considerava il rispetto della parola data come un capitale che non si può dilapidare. Allora Rebecca ricorse a metodi più audaci. Un vento misterioso spegneva le lampade del salotto buono e Ursula sorprendeva i fidanzati a baciarsi nel buio. Pietro Crespi le dava spiegazioni confuse sulla cattiva qualità delle moderne lampade ad acetilene e aiutava perfino a impiantare nella sala dei sistemi di illuminazione più sicuri. Ma di nuovo veniva a mancare il combustibile o si ostruivano i lucignoli e Ursula trovava Rebecca seduta sulle ginocchia del fidanzato, finì per non accettare più nessuna scusa. Affidò all'India la responsabilità del forno e si sedette su una sedia a dondolo per sorvegliare i colloqui dei fidanzati, disposta a non lasciarsi sconfiggere da artifici che erano già vecchi quando lei era giovane. «Povera mamma», diceva Rebecca con scherzosa indignazione, vedendo sbadigliare Ursula nel sopore delle visite. «Quando morirà si porterà al purgatorio quella sedia a dondolo». Dopo 3 mesi di amori sorvegliati, stanco della lentezza della costruzione che andava a ispezionare ogni giorno, Pietro Crespi decise di dare a padre Nicanor il denaro che gli mancava per finire il tempio. Amaranta non perse la pazienza. Mentre chiacchierava con le amiche che tutti i pomeriggi andavano a ricamare o a tessere sotto il portico, cercava di concepire nuovi sotterfugi. Un errore di calcolo fece fallire quello che considerava il più efficace: togliere le palline di naftalina che Rebecca aveva messo nel suo vestito da sposa prima di riporlo nel cassettone della stanza da letto. Lo fece quando mancavano meno di 2 mesi alla conclusione del tempio. Ma Rebecca era così impaziente per l'approssimarsi del matrimonio che decise di preparare il vestito con anticipo maggiore di quello previsto da Amaranta. Quando aprì il cassettone, sollevò prima i fogli di carta e poi il lenzuolo protettore, trovò il raso del vestito, il ricamo del velo e perfino la coroncina di fiori d'arancio polverizzati dalle tarme. Pur essendo sicura di aver messo nell'involto 2 manciate di palline di naftalina, il disastro sembrava così accidentale che non osò incolpare Amaranta. Mancava meno di 1 mese al matrimonio, ma Amparo Moscote si impegnò a cucire un nuovo vestito in 1 settimana. Amaranta si sentì venir meno. Il pomeriggio piovoso in cui Amparo entrò in casa avvolta in un'effervescenza di tulle per fare a Rebecca l'ultima prova del vestito, perse la voce e un filo di sudore gelato le scese lungo il cavo della spina dorsale. Per lunghi mesi aveva tremato di paura pensando a quell'ora, perché se non riusciva a concepire l'ostacolo definitivo per il matrimonio di Rebecca, era sicura che all'ultimo momento, quando fossero venute meno tutte le risorse della sua fantasia, avrebbe trovato il coraggio di avvelenarla. Quel pomeriggio, mentre Rebecca soffocava per il caldo dentro la corazza di raso che Amparo Moscote armava poco a poco sul suo corpo con 1 migliaio di spilli e un'infinita pazienza, Amaranta perse parecchie volte i punti del crochet e si punse il dito con l'ago, ma decise con spaventosa freddezza che la data sarebbe stata l'ultimo venerdì prima del matrimonio e il mezzo sarebbe stato uno schizzo di laudano nel caffè. Un ostacolo maggiore, tanto irrimediabile quanto imprevisto, costrinse un nuovo indefinito differimento. 1 settimana prima della data fissata per le nozze, la piccola Remedios si svegliò nel mezzo della notte, inzuppata in un brodo caldo che sgorgò dalle sue viscere con una specie di eruzione lacerante, e morì 3 giorni dopo, avvelenata dal suo stesso sangue, con 1 paio di gemelli incrociati nel ventre. Amaranta fu colta da una crisi di coscienza. Aveva pregato Dio con tanto fervore che succedesse qualcosa di spaventoso per non essere costretta ad avvelenare Rebecca, che si sentì colpevole della morte di Remedios. Non era quello l'ostacolo per il quale lei aveva così tanto pregato. Remedios aveva portato in quella casa un soffio di allegria.